Ma è stato un attimo, abbiamo anche Susi da Parigi e qui facciamo un grosso, grosso, grosso bacione. Qui abbiamo DJ Scat che trasmette senza sosta sempre dalla zona nostra di Milano, perché tanto uscire di casa non si può, almeno per prendere magari qualche scatoletta di tonno e anche un po' di sabbia per la gatta che se no a un certo punto mi caga sul cuscino. Dalla zona rossa, qui c'è DJ Scat blindato in casa che non può uscire, ma sto sempre con voi mandando musica 24 ore su 24 e dove vuoi che vada. Salutiamo Susi che ci ascolta da Parigi. Ciao Susi. Un grosso, grosso, grosso ciao anche a Sergio che ci ha appena salutato da Ieforte. Abbiamo una dedica in questo momento richiesta per John da Dublino. John da Dublino, se ci ascolti, un ciaone grandissimo dalla zona rossa, blindati come siamo, dove vuoi che andiamo, noi qua siamo. Magari usciamo ogni tanto per fare la spesa, ma si consiglia in questo momento di scegliere un orario tipo, non so, le 8:30, quando il supermercato sta per chiudere, entri un quarto d'ora prima, 4:15, prendi due sacchi di sabbia per i gatti, una cassa di birra e te ne torni subito a casa dove vuoi andare. Just realized that John may not get what we just say, that we want to say a big hug to John that's listening to us from Dublin. My English is kind of rotten now, sorry. È un momento un po' così. Che cosa ci vuoi fare? In questo momento le strade sono deserte, tranne qualcuno che porta a spasso il cane, perché il cane è regolamentare, si può ancora portare a passeggio. Naturalmente con il salvacondotto d'ordinanza, il quale è obbligatorio perché si ricorda che si può uscire solamente nei casi di immediata necessità. E dunque per fare la spesa, per andare a lavorare, per portare a spasso il cane, non più per correre nel parco. La zona rossa si è estesa oggi in Francia, dove è appena cominciato. Ci dicono che i francesi non se ne sono completamente resi conto, un po' come hanno fatto gli italiani la settimana scorsa, e continuano ad uscire a prendere l'aperitivo, ma domani se ne accorgeranno grazie all'esercito che sarà sparpagliato per le strade, ne avranno un immediato riscontro. Si prosciugava un po' con i microfoni, un grosso braccio a Madu, che si è appena messo all'ascolto. Noi sempre qua, DJ Scatter dalla zona rossa, dove vuoi che vada, in casa rimango e continuo a streamare. Ascoltando naturalmente le Supremes con My World is Empty Without You, 1904. Siamo una vera chicca, questa è Billie Holiday, remixata da Nicodemus and Zeb Remix, Traveling All Alone. All alone, come del resto anche DJ Scat, che qui da questa casa non si muove, perché non si può muovere, e mi fanno sapere la chat: spegni l'amplificatore quando parli, se no c'entra tutto il suono dentro e non si diverte più nessuno. E da Dublino, naturalmente, giustamente ci fanno sapere: tieni la giusta distanza dal microfono, abbassa gli speaker quando hai deciso di parlare e soprattutto levati gli occhiali da sole. E quello che segue lo dedichiamo a Dublino, certamente, perché sono i Ramones con Out of Time. E da Out of Time passiamo, che veramente cover dei Ramones, ma originale dei Rolling Stones, passiamo a Here Comes the Sun, altra cover celeberrima dei Beatles, questa volta suonata celeberrimamente da Richie Havens. Baby, Federico ci domanda in chat: ho riprodotto una traccia, come faccio a farla riprodurre? Beh, Federico, mandacela magari in Telegram e da lì la possiamo buttare in questa meravigliosa playlist, sempre con voi, DJ Scat, che trasmetterà 24 ore su 24 da casa, per una zona blindata e la zona nostra di Milano 2, perché vale tutto chiuso. Ciao! Darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right. Little darling, the smiles are returning to the faces. Little darling, like years since they've been there. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right. E ancora con i consigli per una vita migliore, andate a fare la spesa a mezz'ora prima della chiusura del ristorante, che c'è caso che trovate meno gente. Ieri sera ho chiesto a uno dei guardiani del supermercato: scusi, ma qual è il momento migliore per andare a fare la spesa? E questo mi ha detto: guarda, se vieni verso le 7 di mattina, capace che alle 9, quando apre, ce la fai. E allora ho provato ad andare alle 8 e mezza, il supermercato chiudeva alle 9 e non c'era nessuno, ma tutti molto molto molto nervosi. It seems like years since it's been clear. Don't come at it. Down low. Per Federico, volevamo dire che abbiamo ricevuto forte e chiaro il tuo file, adesso non ci resta che convertirlo in un formato accettabile, accettabile per il programma che stiamo usando, e dopodiché rilanciarlo in onda, sempre se il gatto che continua a zompare sulla tastiera si dà una calmata e mi lascia lavorare. Ciao. كلامي معك حابب تغلبني فيك حاسبني. Questa va detta e sono gli Yas francesi che cantano Gamilla, che è un pezzo molto ma molto ma molto bello. ورد جميل لحبك مش جميل الجو خليل لهواك مش خليل. كلامي معك حاجب وحاسبة الدخيل حاسبني مهزوم يقول خطاك دايما عيد داي جمع ومعتوقة فيك مهسوسة وهتفة ليك طبعا استفسار Sentiamo il contributo di Federico, che mandiamo immediatamente in onda. Grazie Federico. Mi sono svegliato questa mattina dal letto alla cucina, caffè latte con biscotto. In un secondo il cervello rotto. E poi in camera di fretta, impegni, aspira, polvere, i piatti nel lavandino tipo minestra. Quando leggo un articolo sul corona, sono Fabrizio Corona. Sul balcone non mi fermo, fumo una siga e poi la spengo. Sento un tram che passa da lontano, tipo Dart, sono tuo padre ma non ho un piano. Forte rimo tipo cassaforte, passeggio rapido sto sulla guglia di un forte. Questo è il quotidiano. Mi faccio una brasa, son fatto da ieri sera. Ho fatto due tiri, stavo una pantera. E poi viaggio quando viaggio iperborico, iperbole equilatera. Ti racconto una crescita rapida, un aumento dei morti. Anzi sono solo risorti da un mondo nascosto, orientato da ciò che non è nostro. Quando sono nostro, quando sono nostro, quando sono nostro, nostro. Ultra aggiornato FFP3, munito equipaggiato, vado in giro con il filtro particolarizzato sugli occhi. Non vedo più i soldi ma solo i dorsi. Ehi, vedo i topi dalla fogna, vanno in giro, non hanno vergogna. Escono dai tombini nascosti, si vedono solo gli occhi. Si vedono solo gli occhi. Questo è il Covid-19, SARS-CoV-CoV-CoV. Si ferma, va in giro mutando forma, dalla Cina all'Asia si infila tipo filo in un naso. La E allora un grandissimo grazie a Federico per il grandissimo pezzo che abbiamo appena ascoltato. Mandacene ancora, mandacene altre, noi siamo qui dove vuoi che vada, è la zona rossa di Milano, e dunque molto volentieri a questo punto vi facciamo ascoltare un mashup di un pezzo dai Chemical Brothers, e naturalmente come avete già sicuramente riconosciuto, i Velvet Underground. Piccolo Renato in chat ci mi domanda: ma perché parli così? Beh, tu due motivi. Uno, parlo così perché spero che non mi si riconosca. E il secondo motivo, quello chiaramente me lo diremo solamente una volta sola, non so se avete visto Troppo Sole di Sabrina Guzzanti, e vi ricordate in questo caso la DJ di Radio Torre Tozza di come parlava e come raccontava sempre qui. Dunque, dalle belle belle frequenze della Radio Milano Zona Rossa, dove vuoi che vada non puoi uscire, stai qua e ascolta con me, magari stappati una birra, quella puoi, se vuoi. Naturalmente l'avete sicuramente riconosciuta, è Stand By Me e anche Dove Vuoi Andare. Ciao. Yeah, yeah, next thing I knew, she was calling for me. take that and rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go, booty go, booty go. Take that, rewind it back. Usher got the voice to make your booty go. Usher got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. Midnight has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Piano piano calano le onde, si avvicina l'ora di fare un saltino 4-4 al supermercato. Stand by me, dice la canzone, e dove vuoi andare? È un po' presto, ma DJ Scat tra poco vi saluta, sia perché si è fatta una certa, sia perché dovrebbe anche pulire di là, e se no poi la gatta si fa l'abitudine di dormirci come se fosse la sua cuccia, e questo non è bello, alla lunga non è bello. E dunque vi saluto e ce ne andiamo, ma prima, come un'ultima cosa, per ricordare da dove siamo venuti, che cosa siamo e magari anche da dove stiamo andando, un pezzo delle Officine Schwarz che fa sempre piacere ascoltare, e con questo vi salutiamo. Pace a tutti a chi ci ha ascoltato, da Dublino a Parigi, a Milano, dalla Zona Rossa, sempre DJ Scatter, sempre dove vuoi che vada, eccoci qua, buonanotte, buona serata.